No sé si he visto que me quieres o he visto que te quiero. Cuando miraba en tu retrato y veía el fondo de tus ojos. No sé si he visto que me quieres o he visto que te quiero. Cuando miraba tu retrato y encontraba el fondo de tus ojos. Y mi minotauro era el ángel Lucifer, mi único salvador. El desprecio que concede en la copa de la mujer del carro de Babel. Solo monstruos, solo monstruos. Engendra el esperma de los hombres de plástico, l'steak tartare de tu sexo coronará mi rostro. Satanás se introdujo en la virgen más pura y un japonés se suicida y en Túnez, como en las Ramblas, la víctima se inmola al fuego. La Seine paranoia, la très saine paranoia du personnage qui joue Gérard Depardieu, de maîtresse de Bernard. Attendez. De Barbet Schroeder. Avec Boulanger comme le personnage féminin. C'est Gérard Depardieu encore très jeune. Déjà costaud, déjà. Comme un tout jeune camionneur des fantasmes les plus torrides des femmes libérées. Il povero diablo qui è il proxeneta, il piccolo proxeneta, in quanto uomo bello, virile, capabile di riempire di forza una femmina, per attaccare a un esercito d'uomini. Il piccolo diavolo medesimo, il mio proprio. In quanto che io sono Don Giovanni, qualche parte, qualche segreto. Segreta grotta della mia del mio laberinto. Io non sono il Minotauro, io non sono Teseo, io sono Baco, chi consola l'abbandonata, la perduta Ariadna. Piangendosi e clamando sulla plaggia, sulla piaggia, le piede nella mare, nella spuma, il grido. Il grido chi domanda, un uomo, io consolo questa vedova ancora dalla giovanezza e la beltà. Io sono l'ivresse, io sono il poeta, chi canta, le parole, chi crede sentire la follia. Dell'amore.